Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori, bentrovati oggi martedì 14 ottobre 2008. Avete già sentito nella rassegna stampa di Bruno Perini come sulle prime pagine dei giornali sia in evidenza il fatto che le borse valori finalmente sono tornate a sorridere ieri. Avete sentito già nei notiziari, nei nostri GR24, come anche le borse asiatiche questa mattina abbiano brindato a uno scampato pericolo. In un certo senso la borsa di Tokyo ha chiuso con un record del 14-15%, Tokyo peraltro ieri era chiusa per festività e quindi ha un po' accumulato due giorni di potenziali rialzi. Questo lascia ben sperare per le possibilità delle borse europee, che forse non ripeteranno gli exploit di ieri, però lo vedremo tra qualche minuto quando ci sarà l'apertura. Torniamo all'attualità, torniamo ai giornali, torniamo al nostro ospite Carlo Bastasin, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno Bastasin. Buongiorno. Bastasin ha scritto oggi sul Sole 24 Ore, appunto un editoriale, La rivincita realistica della politica. Un editoriale in cui si spiega appunto come la politica, i governi abbiano un po' con ritardo deciso di intervenire, però quando sono riusciti a intervenire l'hanno fatto nella direzione giusta. Allora, perché questo ritardo, Bastasin? Ci sono varie ragioni. Una è certamente la difficoltà da parte di chi gestisce la politica economica secondo un modello che aveva dato buona dimostrazione di sé per tanti anni, di dover mettere in questione gli effetti benefici dell'economia di mercato o perlomeno dei segnali che il mercato gli dava. L'altra ragione è che come dicevano un po' gli economisti di inizio Novecento, è difficile per la politica disporre di informazioni migliori di quelle stesse informazioni che il mercato dà attraverso i prezzi, e così paradossalmente bisogna aspettare che il mercato entri in crisi per capire che c'è una crisi. Purtroppo... Quindi bisogna che le crisi avvengano perché poi la politica possa intervenire. Ecco, mentre ricordo agli ascoltatori l'824-0024 per le vostre telefonate, per parlare e poi per fare domande o per dire la vostra opinione, vorrei proprio proseguire su questo fatto appunto con Bastasin, perché lui nel suo articolo mette in luce come il ritardo sia anche dato dal fatto che si erano cercate delle vie nazionali e allora di fronte a una crisi globale forse le vie nazionali non sono più percorribili. Bastasin. Diciamo certamente un tipo di crisi che coinvolge un mercato non nazionale come il mercato interbancario, il mercato finanziario in particolare, certamente non è controllabile a livello nazionale, se non in un'ipotesi del tutto irrealistica di richiudere le barriere, richiudere le frontiere. Ebbene, questa ipotesi ovviamente in un mondo come il nostro sarebbe ancora più autolesionistica di quella di subire interamente gli effetti della crisi, e quindi non c'è in effetti alternativa se non quella di coordinare gli sforzi, ma coordinare gli sforzi richiede uno sforzo di iniziativa politica a cui i nostri governi, che sono concentrati sul governo della politica nazionale, sul governo dell'economia nazionale, non sono abituati, devono entrare in quella modalità. Anche in questo caso, perché ci entrino, devono trovarsi sull'orlo del burrone, e significa che devono aspettare la crisi una volta che si è già manifestata. E questo è ragione del ritardo con cui la politica ha reagito. Ecco, in questa fase, nelle ultime decisioni, la politica ha reagito con decisioni unanimi da parte dei governi, da parte delle banche centrali. Data l'esperienza di questa crisi, è possibile pensare che si arriverà a degli organismi sovranazionali che possano intervenire più rapidamente, che possano avere il potere di prendere le decisioni in maniera autonoma e quindi in maniera più rapida e più efficace in futuro? Carlo Bastasin. Guardi, io ho paura che il successo delle prime iniziative sia la ragione del fallimento delle successive, cioè che ci si accontenti della capacità di intervenire in emergenza e non si cambi molto né nel modello, diciamo usando una parola grossa, né cambiare il modello di capitalismo, può essere più o meno auspicabile anche in ragione delle preferenze individuali che ognuno ha, per alcuni lo è, per alcuni non lo è. ma anche in ragione del problema che poneva lei, e cioè se la politica sarà in grado di far tesoro della necessità di coordinare al di là dei confini nazionali le proprie iniziative. Ebbene, io temo che proprio il successo della prima iniziativa, che è stata un'iniziativa di sbarramento, di totale reazione, ma non di grande creazione politica, freni ulteriori più creative, più immaginifiche, forse anche più adatte, iniziative più adatte ad affrontare un mondo che è così complesso, così difficile come quello di fronte a cui ci troviamo. Ecco, ci sono un paio di SMS che uno in particolare mi chiede: ma siamo veramente alla svolta? Si può dire veramente che siamo usciti dalla crisi più forte? Io giro questa domanda a Carlo Bastasin, che è, ricordo, editorialista del Sole 24 Ore e che ha scritto proprio questa mattina un editoriale dal titolo La rivincita realistica della politica. Allora, Bastasin, siamo alla svolta? Veramente possiamo dire che la grande crisi è un po' alle spalle? Mi piacerebbe poter fare come lei e girare a una terza persona la domanda, ma proviamo ad affrontarla per quel poco che possiamo vedere nei fatti e nelle cifre. Diciamo, una cosa è certa: la crisi è scoppiata con il caso Lehman, quando si è visto che le banche potevano fallire. E un indicatore di surriscaldamento della crisi è il prezzo dei credit default swaps, di questi swap in ragione dell'assicurazione sul fallimento di istituzioni finanziarie o non solo. Ebbene, i credit default swaps ieri sono molto scesi nel prezzo, a segnalare, diciamo, come termometro che la crisi, la parte acuta della crisi, sembra non più creduta tale anche dagli attori del mercato. Prima di dire che la fase acuta sarà veramente rientrata, possiamo aspettare un altro indicatore di mercato interessante, che è il livello dei tassi interbancari. Una volta che saranno scesi anche quelli, potremmo dire che la febbre all'interno del sistema bancario sarà diciamo più sotto controllo. A me sembra però che i grandi squilibri fondamentali ci siano ancora tutti. Il mercato immobiliare americano non è ancora stabilizzato e soprattutto la posizione debitoria sia dell'economia pubblica sia di quella privata negli Stati Uniti è tuttora ragione di instabilità. Grazie mille, c'è quindi spazio per ulteriori provvedimenti. Purtroppo questa crisi cade in un momento in cui gli Stati Uniti stanno votando per il nuovo presidente, non è forse il momento migliore per adottare delle politiche drastiche e rigorose. Grazie a Carlo Bastasin, editorialista del Sole 24 Ore. Adesso riprendo in mano io un po' la palla delle risposte. Sentiamo Tommaso da Venezia, buongiorno. Buongiorno, grazie intanto. La prego. Io volevo fare questa domanda, cioè cosa, io non sono un esperto di economia, ho 51 anni, sono di Venezia, però pensavo a una cosa del genere, in questa crisi e in questa turbolenza finanziaria non ho sentito nessuno fare una proposta del genere, cioè concedere, siccome il problema è il panico che si crea tra la gente che scappa ad esempio dalle azioni, che il governo con i loro stanziamenti concedessero degli extra dividendo a quegli azionisti a condizione che trattenessero le loro azioni per un periodo X di tempo. Tradotto, cosa vuol dire? Io azionista scappo a torto o ragione, però se ci fosse un incentivo a stare ci posso pensare di più. Allora, ecco, finita la domanda. La ringrazio per la sua domanda abbastanza provocatoria, nel senso che ovviamente io non penso che ci debbano essere degli incentivi pubblici a che un risparmiatore faccia degli investimenti in borsa. L'investimento in borsa è una scelta che deve restare libera e responsabile e che deve essere premiata dal successo delle aziende che sono in borsa, e quindi deve essere premiata dal fatto che chi investe dei soldi in borsa ha dei dividendi per gli utili di queste aziende e ha un aumento di valore del proprio investimento se l'azienda va bene e appunto cresce il proprio valore. Quindi questi sono i due parametri che devono premiare l'investimento in borsa. Secondo me qualsiasi intervento pubblico su questo fronte sarebbe una distorsione del mercato e peraltro sarebbe anche una forma di concorrenza illecita verso gli altri paesi verso i quali dobbiamo avere lo stesso trattamento e mantenere, anche appunto perché siamo all'interno dell'Unione Europea, le stesse regole di comportamento. E qui in questo, su questo fronte le regole del mercato forse sono ancora le migliori. Grazie, prima di passare ad altri ascoltatori chiedo a Lino di Genova di aspettare un attimo la linea appunto al traffico. Che strada fa? Primo piano, parliamo ancora dell'area di Bologna, che il traffico adesso scorre sulla 14 Adriatica, però in coda tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 13 Bologna Padova verso Ancona, dopo un incidente che si era verificato ieri sera che aveva determinato la chiusura dell'autostrada per tutta la notte. Ci sono ripercussioni e code verso la 14 anche sul raccordo per Casalecchio e sulla tangenziale tra l'uscita 2 Borgo Panigale e l'uscita 6 Castel Maggiore, quindi traffico piuttosto congestionato, scusate, nell'area bolognese. Ci spostiamo invece a Roma sul grande raccordo anulare, dopo due diversi incidenti ci sono lunghe code in carreggiata esterna dall'Appia fino all'innesto con la 24 Roma-L'Aquila-Teramo, traffico anche in direzione interna, ripercussioni per chi arriva dal tratto urbano della 24, fatica di mettersi sul grande raccordo anulare, code a tratti a partire da Ponte di Nona. Sulla Roma Civitavecchia siamo ancora in Lazio, ci sono code invece per un cantiere tra Cerveteri e Torri in Pietra verso Roma. Intorno a Milano, oltre al traffico intenso, ricordiamo che sulla tangenziale est, dopo il ribaltamento di un mezzo pesante, è chiuso lo svincolo di Via Mercato Sud in direzione dell'Autosole, sia in entrata che in uscita. È tutto al momento, noi ci risentiamo alle 9.45. Promo 24. Il successo di un'auto dipende da chi la guida e chi ha guidato una Volkswagen Passat sa come berlina e Variant siano sinonimo di comfort, affidabilità e sicurezza. Ora Passat offre molto di più: una ricca dotazione che comprende il filtro antiparticolato e il climatronic compresi nel prezzo e gli allestimenti con navigatore, sensori parcheggio e cerchi in lega di serie. Fino a fine anno inoltre Passat propone speciali promozioni e leasing agevolati per agenti di commercio, promotori finanziari, agenti immobiliari, aziende già clienti Passat e a tutti i titolari di partita IVA, una serie di vantaggi ai quali sarà difficile rinunciare. Scoprirete così che viaggiare con Passat conviene. Informazioni presso le concessionarie Volkswagen. Dietro la notizia. Buongiorno, ben ritrovati. Avevo chiesto a Lino da Genova da pazientare un attimo, spero che l'abbia fatto. Prego, Lino da Genova. Buongiorno a Buongiorno. Tutti, scusate, sono un po' emozionato. Volevo fare una domanda. Siccome uno dei problemi attuali è la crisi di fiducia tra le banche che provoca un aumento enorme del tasso Euribor, non si potrebbe obbligare per legge le banche a far conoscere quali titoli collegati ai titoli collaterali CDO, mi pare che siano dei subprime americani, in modo che si sappia precisamente cosa ci sia e almeno si stabilisce un minimo di fiducia fra le banche? Sì, io la ringrazio. Indubbiamente qualunque forma di trasparenza secondo me sarebbe una misura giusta, una misura appunto che può dare una svolta positiva al mercato e alla fiducia delle banche. Non c'è il collegamento che lei dice tra l'Euribor, che è il tasso appunto dei prestiti interbancari, e il fatto che le banche abbiano appunto dei collaterali su cui appoggiano altri strumenti finanziari, quindi i collaterali riguardano soprattutto altri strumenti finanziari che non il tasso a cui vengono concessi i mutui. Comunque, ecco, sul fronte della trasparenza, per stare alla sua domanda, indubbiamente c'è stata poca trasparenza negli ultimi anni. Le banche hanno cercato di vendere dei titoli, ma direi soprattutto le banche americane, altre banche europee, non tanto le banche italiane, anche se le banche italiane qualcosa da rimproverarsi ce l'hanno, hanno cercato di vendere dei titoli non avevano tutte le garanzie che avrebbero dovuto avere, perché avevano appunto come sottostante dei titoli rappresentativi di rischi anche elevati, come abbiamo visto con i mutui subprime americani. Quindi la trasparenza sotto questo fronte è certamente un obiettivo che va perseguito e che spero che le banche possano perseguire in futuro. Francesco da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Cioè, volevo fare due domande. Una è: tutta questa benevolenza verso le banche da parte del governo, no? Ma dall'altra parte, la benevolenza delle banche verso chi per caso perde il lavoro, non può pagare il mutuo, le banche che fanno? Se questo non è caso. Quindi c'è una benevolenza a senso unico, dice lei. A senso unico. E poi un'altra domanda che volevo fare, un mini appello, cioè per gli ultra cinquantenni, con la crisi che c'è oggi in Italia, che perdono il lavoro. Scusi, può abbassare la radio che non si sente, si sente molto male quanto dice. Per gli ultra cinquantenni, che oggi come oggi la crisi che c'è, che hanno oltre 35-36 anni di contributi, no? Perdono il lavoro, questi qua si ritrovano in mezzo alla strada fino a 65 anni. E non c'è nessuna legge, nessun politico da destra a sinistra che salvaguardi questa categoria di lavoratori. Lei mi fa due domande abbastanza complicate, vediamo di rispondere rapidamente a entrambi. Lei dice c'è una benevolenza verso le banche, non c'è una benevolenza analoga verso i risparmiatori che sono in difficoltà per pagare i mutui sulla casa, ma io direi che la benevolenza non è tanto verso le banche quanto verso la stabilità del sistema bancario, la stabilità della moneta. La moneta non è un bene privato, la moneta è un bene pubblico ed è giusto che lo Stato, i governi, le banche centrali intervengano per conservare il valore della moneta, per far sì che chi ha dei risparmi non li veda volatilizzare, perché sì che chi ha anche dei debiti da pagare possa pagarli con tranquillità. L'obiettivo di questa manovra economica è anche quello di far tornare in equilibrio il mercato e quindi di far abbassare i tassi di interesse, il famoso Euribor a cui sono legati i mutui per la casa. Il governatore della Banca d'Italia Draghi l'ha detto molto chiaramente ieri, si tratta di sperare che nei prossimi giorni l'Euribor possa tornare sotto il 5%, possa tornare vicino al tasso base della BCE. Questa quindi è una manovra che da una parte consente alle banche di mantenersi in equilibrio, dall'altra offre ai risparmiatori la possibilità di vedere i propri mutui non salire ancora ma ritornare ai livelli compatibili che erano in precedenza con i tassi di interesse non troppo alti. Ecco, in questa prospettiva è una manovra che non premia nessuno ma cerca di ridare stabilità al sistema. Lei poi mi chiede che cosa si fa per gli ultra cinquantenni che perdono il lavoro. Ecco, posso essere d'accordo con lei, si fa sicuramente troppo poco, ci dovrebbero essere interventi sociali, interventi di garanzia del salario, interventi soprattutto di riqualificazione e di formazione che possono accompagnare queste persone non tanto verso la pensione quanto a un reinserimento in altre formule verso l'attività lavorativa. Andiamo verso la conclusione della trasmissione, abbiamo pochi minuti, sentiamo Dino da Rimini. Buongiorno, buongiorno. A tutti voi, parlo da Rieti, non da Rieti. Da Rieti, scusi. Volevo aggiungere qualcosa circa l'intervento dell'ultimo ascoltatore, perché posso essere d'accordo su quello che dice lei per la stabilità dei mercati, però alla fine di tutto c'erano i contribuenti che poi garantiscono con le tasse e con diciamo l'aggravarsi del debito pubblico quelle che sono le stabilità dei mercati. Allora a questo punto a maggior ragione vale il discorso che se io garantisco i crediti delle banche per ridare fiducia ai risparmiatori e comunque per garantire il sistema finanziario, non vedo per quale motivo i miei mutui o le mie sofferenze bancarie in qualche modo non debbano essere rinegoziate, anche perché poi se io deposito in banca ottengo gli interessi che sono risibili rispetto magari a quelle garanzie che io sto dando pagando le tasse. E una seconda cosa, relativamente proprio al discorso delle tasse. Venerdì scorso o sabato ho sentito Berlusconi dire che finalmente avrebbe abbassato le tasse. Questa intanto è una promessa che non doveva essere legata al discorso della crisi finanziaria, doveva essere legata più che altro alle promesse che lui ha fatto in campagna elettorale. Ecco, la ringrazio, devo purtroppo chiudere un po' la trasmissione rispondendo un po' alle sue domande che sono certamente complesse. Lei parla dei mutui, della possibilità che lo Stato intervenga per facilitare appunto il pagamento dei mutui, mi sembra che quello che si sta facendo, anche se indirettamente, il mutuo, non dimentichiamolo, è un contratto che viene liberamente fatto tra una persona e la banca a fronte di garanzie reali come quella di un immobile, quindi quindi è un contratto che una persona accetta e sa a quali condizioni il mutuo viene erogato. Può scegliere il tasso fisso, può scegliere il tasso variabile. Ovviamente, se sceglie il tasso variabile, sa di andare incontro a delle possibili turbolenze del mercato. Questo le banche dovrebbero dirlo quando erogano i mutui, forse negli anni scorsi non l'hanno detto e ci troviamo ora in questa situazione. Ecco, indubbiamente anche qui torniamo a livello della trasparenza, a livello della chiarezza, a livello dell'informazione. Quello che cerchiamo di fare anche noi con la nostra radio, con le nostre trasmissioni, con i nostri programmi, che cercano, pur con i tempi limitati che abbiamo, di dare un'informazione che sia corretta, che sia trasparente. Anche le banche dovrebbero fare altrettanto, questo è l'augurio. Vorremmo parlarne di più, ma avremo altri giorni per cui parlarne. Io per ora ringrazio per la vostra attenzione, ringrazio Carmelo Lauricella in regia. L'appuntamento è per domani.